anche ragionare. Sistemate omologate, costruite e progettate da un sistema esigente che non rende indipendente. Sei una zecca, un pariolo, un coatto alternativo, e ti attivi piano quel nome per non cambiar poi opinione. Voglio gridare, provare, cantare, e nessuno mi deve giudicare. La mia vita non dipende dal pensiero della gente, ma da ciò che voglio fare. Non me ne devo vergognare. Controcorrente e fa ciò che il cuore sente. Voglio una vita originale che non si fa condizionare. Voglio sempre avanti andare senza smetter di lottare. Già lo so che sarà dura, ma non provo più paura. Tenere i denti stretti o iniziare a sanguinare. Questi tempi non son perfetti, ma niente mi potrà fermare.